24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Giovanni Toti, 47 anni, via Regino, sposato, senza figli, giornalista, direttore di studio aperto prima del TG4, poi al posto di Emilio Fede. Nel gennaio del 2014, già consigliere politico di Berlusconi, viene attaccato da Mentana, che lo invita a scegliere tra giornalismo e vita politica. Nel 2015 si candida e vince le elezioni, diventa governatore della regione Liguria. La sua popolarità oggi a livello nazionale è arrivata al 35%. 35%, soddisfatto? Beh, una buona soddisfazione. Buongiorno a tutti, buongiorno Giovanni. Senta, ma il problema vuol dire che stiamo facendo bene in Liguria, dove governiamo. Ma il problema adesso è come investirlo, questo 35%. Beh, tanto investiamolo a fare un buon lavoro in Liguria, dove abbiamo vinto. Vabbè. Prima di candidarmi in Liguria mi sono candidato all'Europeo, ho vinto anche lì. È andata bene. È stato il primo degli eletti nel collegio del Nord-Ovest. Ecco, si parte per investirlo dalle liste Toti in Liguria, dove adesso si vota. È un punto di partenza quello? Ma guardi Minoli, la lista Toti c'era già, era quella con cui abbiamo corso nelle elezioni regionali, perché la legge regionale ti obbligava a farlo. Quindi come ha già destino portato del presidente. Bene, diciamo. Ha portato bene, per la verità non abbiamo deciso. La lista è di Forza Italia, sarà in Forza Italia in tutte le grandi città, come abbiamo più volte detto. Nei piccoli comuni dove ci sono liste civiche qualcuno ha detto perché non la sfruttiamo per prendere qualche voto in più. Insomma, dal palco di Bologna con Salvini, Berlusconi e la Meloni ai comuni della Liguria. Ecco. Fino a ieri lei era giornalista, adesso politico full time, è meglio? Da giornalista racconti la storia, da politico cerchi di costruire qualcosa. Di farla. Insomma è meglio allora. Quella non so se è meglio, ci vuole tanta passione, si guadagna molto meno Minoli, ecco, come è noto, e c'hai molte più rotture di scatole. Vabbè, però se l'ha scelto vuol dire che le piace. No. Una passione a scoppio ritardato o una passione che c'era già? No, io ero giovane socialista prima di fare giornalista, io ho sempre avuto passione. Chi fa giornalismo, come sa bene, ha anche una passione politica, magari non la esercita. Ma il salto cosa l'ha convinta a farlo? Chi è che l'ha convinta a fare il fatto? Berlusconi? Il salto mi ha convinto certamente Berlusconi. Gli indugi sono stati rotti perché Berlusconi me l'ha chiesto, nel senso che da tempo abbiamo un ottimo rapporto. Ho detto, perché non servito. Provi? Ma ecco, secondo me servirebbero più Toti in politica, non solo dal giornalismo, anche dalla società civile cosiddetta, che troppo spesso si nasconde in questo paese. Ne parleremo. Adesso però, come presidente della Liguria, cominciano problemi che sono diversi dai problemi della televisione. Senta qua, Crozza. La Liguria è molto bella anche nell'interno, è piena di parchi, ettari e ettari di terra incontaminata, non c'è neanche una casa, sono tutti parchi. Per forza non si può costruire nei parchi, non si poteva, perché adesso è arrivato lui. Giovanni Toti, presidente della regione Liguria, con la sua brillante idea. Toti e il piano casa, cemento nei parchi, in Liguria sono troppi, il problema della Liguria. È che ci sono troppi parchi, porca puttana. Ma io erano anni che lo dicevo però, La Liguria è deturpata dai pini marittimi. Ha deturpata dai pini marittimi? Vuole aggiustare il panorama? Senta, Crozza è un genio, ma le cose non stanno esattamente così. Come stanno? Così. Le cose stanno che la Liguria è stata cementificata molto e male da chi ci ha preceduto, non certo dal centrodestra, che lì non ha mai governato, hanno governato sempre quelli del PD che ora si stracciano le vesti. E allora? Allora il nostro piano casa serve a riqualificare un ambiente, riqualificare una componente edilizia che è brutta, vecchia, deteriorata e costruita male. Se pensa che la precedente giunta, che oggi in consiglio regionale si straccia le vesti per questo piano, ha permesso di costruire a 3 metri dai fiumi pericolosi, noi l'abbiamo spostato a 10 metri. Toti. I parchi non è che sono troppi, i parchi sono troppo vincolanti per le persone che ci vivono e le comunità che dovrebbero invece essere aiutate. Il territorio in Liguria è molto accidentato, lo sanno tutti. Ogni anno esondano i torrenti continuamente. E serve altro cemento invece che a 3 metri, a 10 metri dal mare? No, non faremo altro cemento, né a 10 metri né a 3 metri. Riqualificheremo il patrimonio esistente, lo riqualificheremo meglio spostandolo dalle aree pericolose. E quindi a chi le dice che lei è un cementificatore già subito dopo un anno, cosa Ma dico risponde? Che hanno sbagliato indirizzo. Vadano a cercare chi c'era prima. Quando lasceremo la Liguria sarà cementificata meglio di quanto non lo è, avrà le aree verdi che servono e sarà sicuramente sarà cementificata. No, cementificata lo è già, Minoli, non c'è bisogno per né in positivo né in negativo. Diciamo così, sulla protezione civile del territorio. Sulla protezione civile, la tutela del territorio. Da che parte l'ha presa lei? Noi abbiamo già fatto molto più di quanto era stato fatto nei 10 anni precedenti, cioè? Stanziando risorse per i sindaci per mettere in sicurezza i corsi d'acqua, facendo partire i cantieri che erano fermi, cambiando delle leggi come quella che si poteva costruire a 3 metri dai corsi d'acqua che abbiamo cambiato, abbiamo cambiato immediatamente, poi aprendo una sala operativa, cioè, con i vigili del fuoco. Cosa spera che capiti alla fine del suo mandato sull'assetto ideologico della Liguria? Io non dico che sarà una regione sicura, io dico che sarà una regione più sicura di come l'abbiamo presa. Senta, lei è anche eurodeputato, come divide tempo? Perché ci siamo dimessi. Ah, è obbligatorio. Mi sono dimesso, è obbligatorio dimettersi nel momento in cui sono diventato governatore. E mi sono dimesso. Quindi vive a Genova fisso? Vivo a Genova quando non vengo a Roma, perché sono anche vicepresidente della conferenza delle regioni in quota minoranza, le regioni del centrodestra. Senta, Genova è governata da Marco Doria, che è un sindaco della stagione dei sindaci arancioni. Com'è il vostro rapporto? Personalmente cordiale, direi buono. Da un punto di vista politico ovviamente credo che siamo agli antipodi. Ma che cosa ha fatto bene il sindaco in questi anni? Guardi, non saprei cosa ha fatto bene. Mi risulta difficile. Credo che sia una persona intellettualmente onesta, ma che non abbia in testa un modello di città e di sviluppo. Insomma, che voto gli dà come sindaco? È sotto la sufficienza. Proprio perché gli riconosco un'onestà intellettuale, non vorrei, come dire, essere polemico. Senza, un altro polemico. Sindaco di quella stagione arancione è il sindaco di Milano, Pisapia. Tra poco, si sa, si vota e il centrodestra non riesce a trovare un nome da proporre a Milano. Passera non va bene, eh? Guardi, Passera è certamente parte del centrodestra per storia ma culturale. Ma può essere sindaco? Secondo me non può rappresentare il centrodestra, perché Passera rivendica con forza l'eredità di un governo Monti di cui ha fatto parte da superministro, che gli italiani non amano assolutamente. Senta, sentirsi ricordare. Voi avevate Sala, che era un uomo della Moratti, di Tronchetti, Provera, cioè del centrodestra. Adesso invece è campione di Renzi. E sta facendo il giro di Milano spiegando che lui è sempre stato fin da piccolo un pioniere del PC. Centrodestra, centrosinistra, stessa cosa a Milano. Ma no, è Sala che ha un po' di confusione in testa. Il centrodestra ce l'ha chiarissimo che cos'è se stesso. Ma penso anche il centrosinistra, perché non lo vedo molto organico, diciamo, alla città. Senta, ma non è una delle tante confusioni provocate dall'accordo del Nazareno? Cioè, a cascata L'accordo del Nazareno ha prodotto confusione, ma... Ma lei era favorevole o no? No, io sono sempre stato molto scettico sull'accordo. Io sono sempre stato molto favorevole a un dialogo tra le forze politiche, anche di maggioranza e opposizione, sui grandi temi. L'accordo del Nazareno... Ha creato confusione. Ha creato sicuramente della confusione. Cioè, per voi comunque più confusione che risultati, di sicuro, sbaglio, no? Ne ha portati più a Renzi che a noi, questo non c'è dubbio. Senta, con Renzi voi avete scritto insieme la riforma elettorale, adesso non la volete più. Insomma, poche idee, ma non abbiamo scritto insieme la riforma elettorale. Sarebbe lunga. Abbiamo partecipato a un percorso che doveva cambiare questo paese. D'accordo. Vabbè, insomma, è andata male. Senta, è andata male al paese. No, al paese, ma voi ci avete messo del vostro per farlo andare male. No, noi abbiamo provato a dialogare con un partito, il Partito Democratico. Avete fatto gli accordi. Abbiamo fatto degli accordi, ma è anche giusto. Io sono ancora convinto, Minoli, che sulla legge elettorale e sulla Costituzione sarebbe bello cambiarle insieme. Quelle riguardano tutte. Poi se uno vuol decidere tutto lui, fa come gli pare. L'unico accordo è decido io e voi vi adeguate, è difficile. Senti, il leader della Lega Salvini non sarebbe un candidato ideale per Milano? Le ho detto più volte che sarebbe un ottimo candidato non per vuole Milano. Proprio? Bisogna chiederlo a lui. Lei gli avrà parlato, no? Non mi sembra intenzionato a farlo. Un altro che poteva essere... Io ho detto che per me la squadra migliore era Salvini a Milano, Meloni a Roma. C'era un altro giornalista TV, Paolo Del Debbio, che avete inseguito ma non lo vuole fare. Perché? Preferisce fare la televisione. Preferisce fare il suo mestiere che gli piace, bisogna chiedere a lui. Io non credo che si debba tirare per la giacca Paolo, che è un caro amico. Senta, ma prima... Bisogna sentirsela di fare politica. Certo, naturale. Ma prima, allargando il discorso, tutti gli uomini della televisione e la storia correvano a fare politica se venivano chiamati. Adesso rifiutano sempre più spesso. Perché secondo Perché lei? Oggi la politica è scomoda, Minori. La TV una volta ha vinto era più facile sulla politica. La politica ha perso, rispetto alla considerazione che il paese ha della politica, però ci vuole un po' di coraggio per cercare di riabilitarla questa politica. Ma perché la politica ha perso il suo fascino? Perché ha ottenuto pochi risultati. Oppure la politica si fa di più e meglio in televisione? La politica si fa anche in televisione, ma non solo in televisione. Senta, io sento sempre più spesso però politici che vorrebbero condurre un programma invece che stare in Parlamento. Capita anche a lei di sentirli? Sì, moltissimo. Soprattutto di sport o di cazzeggio. Mica solo sport. Senta, intanto è scoppiato lo scandalo dei politici che in TV pretendo di scendergli gli interlocutori. Lo fa anche lei o no? Mai fatto. Discute con chiunque? Mai fatto. A chiunque le mettono mi davanti. Mi porti qua chi vuole. No, no, le chiedo. A me io ci sono basto io qua. Senta. Sì, è piuttosto agguerrito per essere mattina presto. Senta, mi sveglio presto. Senta, ma che cosa manca alla politica per avere un appeal diverso adesso? Manca che produca utilità per i cittadini. I cittadini dalla politica vogliono delle risposte, vogliono sapere come mettono i loro risparmi, come si vuole un modello di sviluppo per questo paese, l'occupazione per i figli. Questo deve fare la politica. Senta, in ultima analisi. Forza Italia di appeal oggi ne ha davvero poco. Se Berlusconi... Ma io non credo. No, mi faccia dire, faccia la domanda. Berlusconi è lui che dice senza di me Forza Italia sarebbe al 5%. Dopo 20 anni mi sembra un fallimento. Ma non è affatto un fallimento, credo che... Dice lui. Ma no, Berlusconi come sempre... No? Se si mette l'asticella bassa, se poi un po' più alta... più bassa di così, se poi un po' più alta, secondo me. Senta, si è più soddisfatti. Non credo lo pensi neanche Berlusconi. Forza Italia oggi è un partito... Guardi, le faccio un esempio. In Liguria, dove stiamo governando, e io aggiungo bene, ma ammetto di essere un po' di parte... Un po' di parte. Ammetto di essere parziale, Forza Italia è sopra il 16% nei sondaggi. Senta, ma se dopo 20 anni uno costruisce una classe dirigente che vale il 5%, cosa vuol dire? Non credo che la classe dirigente di Forza Italia valga il 5%. No, credo che lo pensi neanche Berlusconi. Va bene, allora dice cose che non pensa. Senta, ma no, non è esattamente così. Con un microfono in mano davanti a un comizio si dicono tante cose per galvanizzare i propri militanti e spronarli a un impegno maggiore. Senta, dai. Berlusconi dice, sempre per spronare, dice presenterò una nuova squadra di giovani vincenti. Chi sono? Ma ne abbiamo tantissimi. Ma lei li conosce questi qui che ha in testa Berlusconi? Esattamente quelli che ha in testa Berlusconi, no. Tutti, non saprei dire, non c'è un'identità perfetta tra la mia testa e quella di Berlusconi. Conosco molti giovani che Berlusconi conosce e frequenta, e ne conosco molti anch'io, ne conoscono molti i nostri dirigenti locali. Noi abbiamo oltre 4.000 amministratori. Vabbè, insomma, nomi tra non questi escono, abbiamo sindaci, consiglieri regionali, assessori regionali. Senta. Se vuole le dico, i più bravi sono quelli della mia giunta. Naturalmente, non dubitavo. Senta, ma in primavera, diciamo, si vota anche a Roma. A Roma il candidato ce l'avete, lei ha detto Meloni, però non sono sicuro che sia lei. Neanche io, Minoli. Sì. Marchini non può essere candidato, no? Non escludiamo nulla. Marchini è una persona che ha fatto opposizione al governo Marino in questi anni, l'ha fatto pure bene. Però bisogna mettere tutti insieme. È un candidato possibile? Io dico ancora, se scende in campo la Meloni, che è leader di coalizione, meglio. Non si discute e si vota la Meloni. Bertolaso sarebbe un ottimo candidato che potrebbe togliere d'impiccio tutti i partiti perché ci si coalizza su di lui. Le ipotesi, come vede, sono tante. Aspettiamo di capire. Ma quando decidete? Ma tanto vediamo quanti guai combinano quest'anno le primarie del PD, poi decidiamo. Vabbè, dopo le primarie lo deciderete. Senta, oggi si... Di solito le primarie ci aiutano. Vi aiutano, eh? Oggi si scegliete su misura l'avversario, diciamo. Di solito cominciano già a ammaccarsi da soli, senta, quindi quando si arriva oggi, in campagna elettorale... Oggi il sistema bancario, per parlare di cose che interessano davvero gli italiani, è sottoposto a tensioni fortissime, la gente ha paura per i propri risparmi. Il decreto salvabanche è stata una buona cosa o no? No, è stata una pessima cosa. Perché? È stata una pessima cosa perché ha fatto perdere fiducia nel sistema bancario. Oggi i soldi gli italiani dove li dovrebbero mettere? Sotto il materasso, se un'obbligazione che ti vende il tuo direttore di banca dicendoti il tuo conto non rende nulla, ti do un'obbligazione che tanto è mia, la emetto io, è come se fosse della anzi, dice anche l'ha comprata anch'io, anche la mia famiglia, perché anche questo dicevano. Senta, e poi ti ritrovi senza soldi. Lei francamente pensa che il ministro Boschi ha fatto bene o male a non dimettersi per fare Banca Etruria? Ma non lo so, questo è un caso di coscienza. Noi non abbiamo, come noto, partecipato alla mozione di sfiducia individuale perché non lo abbiamo mai fatto in 20 anni della nostra storia. Io credo che se si deve rimettere qualcuno si deve rimettere il Presidente del Consiglio. Senta, intanto la Germania ha sistemato le sue banche. Mentre noi siamo arrivati all'appuntamento col Berlin senza neanche sapere bene che cos'era. L'abbiamo votato e non l'abbiamo capito. Una vergogna per almeno 4 governi di fila, d'accordo? Beh, che in Europa non facciamo tanto bene il nostro lavoro da tempo non c'è dubbio. Beh, questa è bellina grossa vera, eh? Adesso è difficile spiegare ai correntisti delle nostre banche che pagheranno anche loro se le banche saltano, come istigati a ritirare i soldi dai conti correnti. Il tema è di fiducia del sistema bancario. Appunto, cioè spiegato bene il presidente di Mediolanum Doris quando disse prendiamocela a carico anche noi del sistema bancario. Senta cosa ci ha detto il presidente del Censis De Rita ieri. Professor De Rita, il risparmiatore italiano è confuso. Il caso della Banca Etruria, il bail-in, le norme europee sui salvataggi bancari. Che cosa hanno provocato nella psicologia di massa del risparmiatore? Di sommergersi, di andare nel sommerso, di tenersi i soldi nel cassetto della scrivania, o non dico sotto il materasso, ma quasi. Ma perché c'è una paura di dover affrontare qualcosa che non sono preparati a fare? Nessuno di noi è preparato a fare il risparmiatore a oltranza in questo momento, perché la nostra capacità finanziaria è relativamente limitata. Le famiglie italiane non hanno studiato finanze e nessuno glielo dovrebbe rimproverare. Ecco, gli italiani, che sono grandi risparmiatori, sono colpiti anche adesso. Ma insomma, questa classe politica che nel suo insieme, dicevo prima, quattro governi hanno approvato il bail-in senza sapere cos'era, ma non è una responsabilità gravissima? È una responsabilità grave. Io credo che questo governo potesse metterci una toppa facendo qualcosa di diverso, salvando queste banche in modo diverso. Non si può diverso. Dire che è colpa sua questa del bail-in. Beh, oggi del bail-in no, di questo decreto salvabanche sciagurato, okay. Francamente sì. Senta cosa ci ha detto il professor Zingales a proposito della crisi della responsabilità della Germania. In questo momento l'Europa che abbiamo è un'Europa a egemonia tedesca. Certo, non c'è dubbio. Tutte le regole sono introdotte dalla Germania e valgono fino a che... Convengono alla Germania. Esattamente. Allora, l'Unione Monetaria, qualsiasi economista, dice che l'Unione Monetaria non è sostenibile senza una qualche forma di redistribuzione fiscale. Allora, secondo me la vera discussione che va messa sul piatto oggi è dire... Quale forma di distribuzione fiscale facciamo oggi per renderla possibile? Oppure la Germania non vuole fare nessuna forma di distribuzione fiscale? Allora dobbiamo rescindere i patti, perché non è possibile avere una moneta comune senza una redistribuzione fiscale. Certo, ha ragione. Ha ragione Zingales, Toti. Ha ragione che la Germania si è fatta gli interessi suoi e li ha fatti bene, l'Italia se ne è fatti molto pochi e li ha fatti molto pure male, ma non solo l'Italia è in buona compagnia. Ma sarebbe la fine dell'Europa? Mi auguro di no. Io sono convinto che l'Europa possa dare ancora molto, ma sono convinto che vada cambiata profondamente. Vede, su Schengen andrebbero chiuse le frontiere esterne dell'Europa, non quelle interne. Quando lei arriva negli Stati Uniti, la controllano quando entra, non quando passa da uno stato all'altro. Senta, l'economista Veronica De Romanis, che è la biografa della Merkel, ha detto: aiutiamo la Merkel sui migranti, che chiede aiuto adesso. E però chiediamo aiuto per le banche italiane, per regolare il problema che abbiamo della bad bank, sostanzialmente. È un'idea? Ci vorrebbe qualcuno che trattasse in Europa. Juncker ha detto non abbiamo interlocutori verso l'Italia. E in effetti finché sono stato io in Europa un po' era così. Come? Adesso hanno nominato Calenda, no? Ambasciatore. Ma Calenda è una persona per bene che farà bene il suo lavoro. La Mogherini si è persa tra le cannonate dei renziani che si sono rivoltati perché dopo averla nominata inutilmente. Senta, adesso sembra che ormai tutti i partiti dicono la stessa cosa, ognuno con la sua sfumatura, ma più o meno, cioè basta con questa Europa. Quindi si giocheranno su Europa sì, Europa no le prossime elezioni? Si giocano da un po' di tempo su Europa sì, Europa no, spesso in modo strumentale. Io dico che Renzi ha avuto un semestre di presidenza, era molto forte, l'ha buttato via. In Europa però, con lo scontro tra Renzi e la Merkel, sembra sia iniziato un trattamento che assomiglia un po' a quello che ha subito Berlusconi. Ma questo non me lo auguro perché... No, ma lei vede delle analogie? Spero di no. Spero di no, perché quello fu francamente un colpo di Stato. Senta, ma c'è un rischio che in Europa la legge di stabilità venga bocciata in primavera? Ma anche questo io non gioco al tanto peggio, tanto no, meglio. No, non chiedo se se lo augura. Mi auguro di no, c'è lei un rischio. C'è un rischio, c'è stato. C'è un rischio sì, perché una legge è tutta in deficit e quando poi... facendo una legge tutta in deficit con dei parametri di sviluppo che vedremo se ci saranno davvero, se come al solito saranno sbagliati, si rischia, e per di più avendo pessimi rapporti con la Commissione Europea. Senta, un rischio c'è. Senta, sembra che con la squadra rinnovata di cui parla Berlusconi, Berlusconi punti su di lei per gestire il rapporto con Salvini, è vero? Lei ha un rapporto buono. Io ho un buon rapporto con Salvini, ho il vice segretario di Salvini nella mia giunta, Edoardo Rixi, come ho un ottimo rapporto con Maroni, con Zaia, con tutti i nostri alleati. Vede, io sono un coalizionista convintissimo. Senta, a Milano il nome però non c'è, ha detto aspetta le primarie, a Roma neanche, a Napoli? Ma a Roma ne abbiamo fatti almeno tre di nomi. Ma tre sono troppi. Arriveremo ad uno, ma se il PD ne ha quattro e si accapigliano tutto il giorno adesso, è un partito ricco di risorse. Quando il centrodestra ne ha tanti e possiamo scegliere, invece è un casino. Usiamo un metro per tutti. Va bene, senta, intanto nella guerra interna nel centrodestra non è un balsamo solo per Renzi questa guerra? No, ma non c'è nessuna guerra. Ma Renzi rischia, allora mettiamolo in un altro modo. Centrodestra, anzi, è più compatto oggi di quanto non lo fosse sei mesi fa. Stiamo dopo Bologna, un ottimo Bologna, è stato... Bologna è stato un grande passo, un grande momento aggregativo del centrodestra. Siete divisi poi subito dopo sulla Boschi, ma insomma. Ma non una coalizione, non vuol dire un'identità completa di vedute, se no saremmo fatti con lo stampino. Sì. È anche una ricchezza, volte la diversità. Cioè, a volte sì. Senta, rischia di più secondo lei Renzi sull'amministrativo o sul referendum? Su entrambi. Perché? Sulle amministrative perché ha fatto troppe promesse che non ha mantenuto e gli italiani in queste elezioni di medio termine glielo faranno sapere. Sul referendum perché dire o me o con me o contro di me è sempre rischioso in un paese. Senta, ma Alfano e Fitto che vanno ognuno per conto proprio fanno sempre parte della ricchezza nella diversità oppure... Alfano fa parte del governo Renzi, deve decidere cosa vuol fare da grande. Fitto bisogna... L'ha già deciso secondo lei o no? Ma nel suo partito qualcuno l'ha deciso, qualcuno ci sta ancora pensando, spero che alla fine pensino bene. E Fitto? E Fitto prima o poi torneremo a parlarci se sta dalla parte del centrodestra, immagino. Senta, Mattarella è stato il punto di rottura tra Renzi e Berlusconi, è stato un errore di Berlusconi? No, è stato un errore di metodo del PD come è stato proposto, ha sbagliato a proporre l'uomo giusto nel modo sbagliato, contano anche i percorsi che si fanno. Mattarella è l'uomo giusto proposto nel modo sbagliato. Esattamente, conta anche la strada che si fa per arrivare a una meta, non solo la meta. Beh, insomma, la meta è importante. La meta è importante, non c'è dubbio. Infatti io sono soddisfatto che oggi Mattarella stia al Quirinale. Persona che gode della mia stima. Ma quando un personaggio come il Presidente della Repubblica va scelto insieme e ti dicono o questo o niente... È un consiglio. Senta, voi continuate ad attaccare Grillo. Ma non è il modo migliore per tirare la volata a Renzi questo? No, beh, Grillo lo si attacca semplicemente perché è un partito che campa di distruzione e non di costruzione. Senta, oltre alle banche... Non credo che si debba fare politica solo, come dire, vedendo chi ci guadagna da quello che dici, senta, anche dicendo cose giuste. Certo, per governare poi bisogna fare delle scelte. Oltre alle banche è sempre più drammatico, diciamo così, il problema della Libia che ci riguarda direttamente. Bisogna prepararsi alla guerra, secondo lei? Secondo me l'Europa deve assumere una responsabilità non solo in Libia, in tutto il teatro. No, ma io parlo della Libia che ci riguarda. Beh, la Libia noi abbiamo responsabilità particolari. Berlusconi aveva risolto tanti di quei problemi, qualcun altro, i francesi di Sarkozy... Però alla fine poi Gheddafi, anche lui ha lasciato le basi. Beh, l'hanno un po' fatto lasciare, diciamo, un po' forzato e su cui certamente noi non eravamo d'accordo. Sì. Detto questo, credo che l'Italia debba assumersi delle responsabilità, sì, se necessario. Pronto alla guerra, insomma, se serve. Ma io l'ho detto all'inizio di quest'ultima crisi, gli attentati di Parigi, non solo in Libia, anche in Siria, anche in Iraq, e l'Europa per una volta dovrebbe essere, se davvero esiste, in prima fila e non dietro gli americani, dietro i russi, dietro tutti quelli che stanno oggi già in terra. Ecco, ma i 450 militari a difesa della diga di Mosul non sono le prove generali per la guerra già? Ma spero di no, spero che ci sia. I 450 militari che proteggono la diga di Mosul fanno un'ottima attività perché è un'installazione importante. È un impegno importante, occorrerebbe un po' di coerenza e un disegno politico perché sennò rischiamo di... Ma scusi, mettiamola così, Presidente Totti, con la situazione che c'è in Libia, che è lì, a pochi chilometri, lei ha paura che si preparino atti terroristici anche in Italia? Spero di no. Non possiamo escluderlo. Speriamo tutti. Non possiamo escluderlo. Notizie? No, io non ho nessuna notizia. Il Viminale fa sapere che la sicurezza è ai massimi livelli, ovviamente. Su questo, come dire, è inutile rassicurare i cittadini come è inutile fare allarmismi inutili. Senta, Presidente, possiamo sperare di rimanere esclusi da questa guerra facendo, come dire, acquattandoci in un angolo. Senta, Presidente, le faccio un'ultima domanda. Alla fine, a quanto lo dà Giovanni Toti, candidato premier del centrodestra alle prossime elezioni? No, non scommetterei su me stesso, ma penso che saranno tutti gli elettori del centrodestra. Cioè, quindi decidere. Come ogni buon politico dice che c'è una forte possibilità. No, questo l'ha detto lei, non l'ho detto io. Dico e che... mi dica quanto lo dà, no, faccio una percentuale. Ma le pare che da genovese sono disposto a scommettere, certo. A scommettere per vincere. Qualche centesimo. Scommettere su per vincere. Assolutamente no. Vabbè. Io credo che il centrodestra tornerà a vincere e lo farà col candidato che raggrupperà maggiori consensi. Ok, grazie. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS pubblicità. Mix 24. Allora questo Toti, che voto gli diamo? Che titolo facciamo? Ma io faccio un titolo a un vecchio slogan di Berlusconi: più Toti per tutti. Più Toti per tutti? Sì, almeno è uno che governa lì. E tu che dici, Pietrangelo? Un titolo da romanzo. Ah. Il coalizionista. Ah sì, coalizionista, è vero, l'ha detto con molta precisione. Vabbè. Beh, è stata una sorpresa. Pietrangelo, tu cosa ci fai ascoltare stamattina? Arriva. Per metterci di buon umore? Well, I've walked these streets, a virtual stage. It seemed to me, makeup on their faces, actors took their places next to me. Well, I've walked these streets in a carnival of sights to see. Allora Pietrangelo, e non so se avete mai fatto caso, com'è la dedica oggi? La dedica arriva alla fine, perché bisogna vedere chi ha chiamato, chi ha telefonato, chi ha scritto. Volevo capire tutto. E succede questo, non so se ci avete mai fatto caso, vi capiterà di osservare come il traffico a volte crei delle isole, poi diventano arcipelaghi, e da una spiaggia all'altra, a trovare un caronte che accompagni verso le sponde opposte, si scorge la fatica tutta inutile dei profeti. E capita che scoppi improvvisamente il carnevale, è scoppiato il carnevale, e quindi un tappeto rosso si srotola per accogliere il passo della più bella. Ha chiamato il cappellaio matto, ha voluto questa canzone e la dedica ad Alice con un messaggio: pomeriggio te al gelsomino. Hai visto? Tu Mario, c'è una bolla da dedicare anche tu, mi pare. Ma io non so se devo dedicare. Non è dedicata, eh? È bella. Una bolletta. Forse questa volta siamo arrivati alla bolla cattiva. Beh, cattiva. Ah, tu. Magari. Ha fatto di tutto. Allora. Un po' di musica. Certo. Allora, tirate su. Dai, un po' di musica. Grande Minoli, a Minoli piacciono Diego Smith. Molto, a me piace tutto quello che piace a te di musica. Adesso non esageriamo, anche io qualche volta metto qualcosa di Tamarro, ma non fa niente. No, questo è Walk This Way, un pezzo leggendario. Oh, vabbè, abbiamo messo un pezzo con un grande ritmo, perché in realtà, insomma, qua è venuto fuori un mezzo pasticcio. Juncker che cosa aveva detto? Aveva chiesto un interlocutore per Roma, Jean-Claude Juncker, il presidente della commissione UE, e Renzi lo ha accontentato. Ma in modo renziano, cioè ha nominato ambasciatore Carlo Calenda. Infatti. Ambasciatore, e che ambasciatore? Cioè la rappresentanza permanente dell'Italia all'Unione Europea. E Renzi ha nominato un politico. Perché questo è Calenda, non è un diplomatico di carriera. E beh, insomma, in un sol colpo il nostro presidente del Consiglio ha fatto a pezzi tutta la diplomazia italiana. Quanti sono gli ambasciatori italiani? E questo è interessante, su 130 titolari da ambasciata, rappresentanza permanente e così via con quel titolo. Quindi vuol dire che non ce n'era nessuno secondo lui buono. Nessuno secondo lui buono per andare a Bruxelles a fare che cosa? Gli interessi italiani. Gli interessi italiani, ma poi a fare che cosa? Le riunioni con chi? Con gli ambasciatori, perché il buon Calenda, a cui noi auguriamo ovviamente ottima buon lavoro, certo. Ottima persona, niente da dire, però si troverà in un consesso di ambasciatori, cioè di diplomatici di carriera che fanno quello, che preparano non poi saranno contenti, i consigli. Qua ci sono molte considerazioni da fare. Primo è che è stato fatto fuori in maniera brutale l'ambasciatore Sannino, che è un diplomatico di carriera molto capace. La seconda cosa appunto è che è stato preso da un cilindro non della diplomazia, della politica, ma della politica. Ma era già capitato qualche volta? Mai? E questa è la domanda ottima che poni, cioè quando Berlusconi, perché poi le cose vanno raccontate tutte, quando Berlusconi si azzardò a immaginare, non nominare, dico immaginare, la nomina di Franco Tatò a Berlino. Franco Tatò, sì. Super manager, sì, anche sì, lui una di persona tutto. di indiscusso valore, come tra l'altro anche Calenda. Certo, cosa ecco, è capitato? La sollevazione, i titoli dei giornali. Ma si vede che Renzi ha più consenso di Berlusconi nel paese. C'è il controllo della stampa, della pubblica opinione. C'è il controllo totale. Sono tutti liberi. Ma come? Scusi, tutti liberi. Sì, tutti liberi di essere renziani. Quella è una scelta. Se è una scelta, perfino Repubblica è diventato un organo ufficiale. Sei d'accordo con Stefano da Prato che dice Minoli mai così aggressivo, sarà la presenza di un governatore di centrodestra, non va mai bene niente. Vabbè, okay. No, posso solo fare, come se lo dissi, una chiosa a tutto questo. Allora, siccome insomma io di verbali del Consiglio europeo, degli ambasciatori, li ho anche pubblicato qualcuno in esclusiva da poco, no? E allora mi chiedo quale sia la ratio della nomina fatta da Renzi, perché se è quella di mandare la sua anima politica, non otterrà un gran risultato. Forse si preparano le elezioni. Ecco, questo è più probabile. Ho letto un tuo pezzo sul foglio è di Pietrangelo, perché qui non si capisce più niente fra voi due. Pietrangelo è il fatto, io so il foglio. Senti, fatto, e poi siamo tutti Mix 24. Fatto, mi dici un po' il tuo Saramino? Arriva. Oggi pomeriggio il Question Time. La domanda si impone e a Montecitorio si dispone. Arrivano gli 007 e chi mai risponderà? Domanda che ci domandiamo: perché Renzi si espone con la nomina di Marco Carrai ai servizi segreti proprio in questa fase, quando, e rilancia la domanda Fabrizio D'Esposito sul Fatto Quotidiano, quando si aprono le prime crepe, e cioè la questione con l'Europa e poi Banca Etruria. Oggi dunque nel pomeriggio Question Time. Chi risponde alla domanda che ci domandiamo? Chi Mario risponde? Non risponde, è legittimato a rispondere. Come sei? Illegittimato a rispondere, pur dotato di fischietto, non risponde. Non risponde dunque Angelino Alfano, ministro dell'interno e titolare di tutti i fischietti possibili, delle tarantelle disponibili in questo momento. E per quanto dotato di rassicurante sorriso, Alfano non vuole metterci la faccia. D'Esposito, nel suo informato servizio sul Fatto Quotidiano di oggi, raccoglie una spiegazione data dai parlamentari esperti di 007. Cosa dice? Il premier, tramite Carrai, vuole il controllo del flusso delle intercettazioni. Senza dimenticare l'Alexio delle vicende berlusconiane, nonché una torta, dicono questi 007 informatissimi, di 150 milioni di euro. Ma chi risponderà alla domanda che ci domandiamo? Concretamente... Giovanni Mario, il gioco è duro e quando è duro ci vogliono i duri. E dunque arriva lei, la soave, la tosta, Maria Elena Boschi, che insomma si fa carico con tutte le meraviglie proprie del giglio magico e risponde: ma io ho comunque una cosa che non mi riesco a togliere dalla testa. Com'è che faceva quella canzone? Ma non è suo papà? Sì, burlava i correntisti con scarsa pietà. Ma scusi, non è suo papà? Diventa un tormentone questo. Vabbè, io me ne vado, eh. Ma allora ce l'avete con la Boschi? No. Ma è bella sta canzone. È molto carina. Ma sai che la cantano tutti? Carina e carina. Si canta sempre di più in giro. Si canta in giro? Sì, a Montecitorio ho assistito a questa scena. No, dai. Erano tutti incollati a un telefonino. Pensavo che, insomma, chissà che cosa fosse. No, e cantavano in coro. Ma non è suo papà! Viva Sora Cesira! Indagato sarà. Comunque Sora Cesira è brava, eh? Sora Cesira è molto bella. C'ha fantasia. C'ha molta fantasia, sì, devo dire. Poi non so, Pietrangelo ha un debole. Ecco, ma non è che è Valentina, no? C'è ancora la bolla, Mario? Tu. Sì, io devi c'ho... parlare di leggi, di che cosa? Ma io c'ho una cosa bella del servizio studi della Camera dei Deputati, appena uscita, che adesso ascoltiamo prima un po' di Santana. Come va? Va così, va che noi abbiamo 192 atti approvati dall'inizio della legislatura, aggiornamento dalla Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2016, quindi siamo proprio lì con il timing perfetto. E insomma, quanto conta il Parlamento? Quanto conta? Zero. Perché? Perché allora ti dico abbiamo subito, detto prima che l'iniziativa delle tutti i parlamentari vogliono fare programmi televisivi. Certo, quindi non lavorano. E infatti, no, e non infatti, sono soddisfatti. E infatti, su 192 leggi della legislatura, sì, in valori assoluti e in percentuali, noi abbiamo che 159 su 192 sono di iniziativa governativa, cioè l'82%. Mentre solo il 31% sono di iniziativa parlamentare. È il problema del Parlamento, dei nominati. Questo, esatto, non solo, ma il problema del Parlamento è che lavora poco, lavora su impulso del governo. Segnalo per la cronaca, per la storia, per sapere, per conoscere, per deliberare, come si dice in questi casi, che nel passato, quando altri governi di altro segno, ma anche di sinistra, fecero largo uso dei decreti, ci furono messaggi dei presidenti della Repubblica su questo. Ora, qua bisogna mettersi d'accordo. Questa si chiama legislazione motorizzata e bisogna decidere se la volete fare o non la volete fare. Però è anche vero, Mario, diciamo una cosa anche più generale, è anche vero che la democrazia governante richiede tempi più veloci. No, non ci sono dubbi. No, questo io, è tutto io il mondo. Questo, perché questo no, non lo contesto. Però allora la finiscano. La democrazia del Novecento è l'unica forma. Allora la finiscano con la storia retorica sul Parlamento. In Parlamento in questo momento schiaccia il bottone delle cose che decide il governo. Ci sono i numeri, non lo dico io, il servizio studi della Camera. È un passaggio. È un passaggio e secondo me i giornali dovrebbero pubblicarla questa roba. Questo è aggiungo. Questo, comunque noi lo consigliamo. Noi tanto lo diciamo. Renzi vuole la pubblica. voglio dire. Sentiamo il canzoniere di oggi. Potrei qui esporre di fatti in un albero genealogico l'origine e la discendenza della mia famiglia e dimostrare come qualmente non solo ho conosciuto mio padre e mia madre, ma e gli antenati miei e le loro azioni in un lungo decorso di tempo, non tutte veramente lodevoli. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS, piccolo aiutino. È un corregionale di Camilleri. Ah, un corregionale di Camilleri. L'autore di questo libro. Va bene, Mario, c'è un aggiornamento? Sì, no, cioè nella nostra cavalcata delle notizie quotidiane intanto abbiamo incontrato una canzone e uno squalo che adesso fa partire la regia. Mandi. E del Tiburón di Manà, un bel ritmo anche questo, stamattina. Todos me llaman el Pestiburón. Lo faccio per segnalare, secondo me, il titolo più divertente della giornata oggi. Lo hanno i giornali del gruppo Carlino, Nazione Giorno, che è in filo di fusione, dico sempre io quando scrivo list per il Foglio, hanno questo titolo. Governo all'italiana. E perché uno dice, quale governo? Beh, in Libia hanno fatto il nuovo governo e hanno dovuto trovare il posto a 32 ministri. Vi ricorda da vicino qualcosa? Insomma, partono bene. In Libia i clan tribali. Si vede Italia. Che c'è la mano italiana, però. Certo, in Italia i partiti politici. È rimasto qualcosa lì. 32 ministri. Non male. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Questa nave deve essere per i suoi passeggeri un modo di vivere. Deve offrire loro un'esperienza diversa e migliore di qualsiasi esperienza analoga che essi potrebbero avere altrove. Un'esperienza piacevole per loro mentre la vivono e tale che, finché vivono, non debbano mai più dimenticarla. Una nave che deve essere un modo di vivere, l'enfatico comunicato stampa del varo dell'Andrea Doria. Ma a stupirci sono le cifre. 10.000 tonnellate il peso dello scafo, 14 miliardi di lire il costo, 1.241 passeggeri, 500 il personale di bordo. Il 14 gennaio del 1953 l'ammiraglia della Società Italiana di Navigazione, considerata inaffondabile, compie il viaggio inaugurale. Ma dopo solo 3 anni, durante la 100ª traversata Genova-New York, l'Andrea Doria affonda davanti alla costa di Nantucket. Andrea Doria, la nave dei divi speronata dalla svedese Stockholm, porta via con sé un grande sogno. Coraggio, polemiche e segreti, qui a Mix 24, il giallo della storia, dopo il giornale radio. Mix 24. Qui Giampiero ce l'ha con la regia, Perché? Mettete per dispetto le canzoni per togliere dopo 8 secondi. Beh. Intanto vuol dire che piacciono. Se facciamo almeno 20 secondi, vabbè, adesso le facciamo durare 20 secondi. Vero, vero, però, poco, è vero, però è vero. Ha ragione, va bene. Ci vuole. Buttafuoco è sempre un commerciante di quelli. Da... No, dico meno noi. Ma secondo te è un complimento? Dice un'intervista a Totti, davvero esponente del Comintern. È un complimento o un insulto? Non lo so. Nel senso che io avevo grande rispetto. Nel senso che Totti sembrava Brezhnev. Ah, ecco, va bene. Hai detto niente. Quella è gente seria, cioè, ci fai risentire il, perché qui non telefona nessuno per il nostro faccendiere lì, canzoniere. Il nostro faccendiere non è male. Un bel lapsus. Dobbiamo sceglierlo. Chi vai, vuoi? Vai col canzoniere. Carboni va di moda. Ancora, Fu premio Nobel oltretutto. Ah, beh, allora. Visto che aiutino. Potrei qui esporre di fatti in un albero genealogico l'origine e la discendenza della mia famiglia e dimostrare come qualmente non solo ho conosciuto mio padre e mia madre, ma e gli antenati miei e le loro azioni in un lungo decorso di tempo, non tutte veramente lodevoli. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS, per favore indovinate. Mario, c'è ancora una bolletta? Sì, c'è anche Gecko, c'è. Io non creo niente, io possecco e noi facciamo le regole, le notizie, le guerre, la pace, le carestie, le sommosse, il prezzo di uno spillo. Tiriamo fuori i conigli dal cilindro mentre gli altri seduti si domandano come accidenti abbiamo fatto. Non sarai tanto ingenuo da credere che noi viviamo in una democrazia, vero, Buddy? È il libero mercato e tu ne fai parte. Allora, noi facciamo parte di che cosa? Del libero mercato o della democrazia? Forse di tutte e due insieme, tutte e due non stanno benissimo. Sono cominciati stamattina i lavori del World Economic Forum a Davos. Lo commenteremo. Domani. Perché è un luogo dove si incontrano quelli che decidono. Sì, sì, anche gli ipocriti, però, perché ci vanno con il jet privato e discutono di ambiente. Vabbè, un giorno poi lo facciamo per bene. Segnalo solo che il commissario europeo agli affari economici, Pierre Moscovici, a margine appunto dei lavori del World Economic Forum, ha detto che la Commissione non può essere accusata di agire contro l'Italia. Ma cali la tensione, quindi in realtà cali la tensione. È un invito a Renzi. Tanto per chiudere, come sempre, col professor Roberto Bernabei commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina. Le frontiere della ricerca. New England Journal of Medicine, 19 novembre 2015. Il disturbo di ansia generalizzato. Il disturbo di ansia generalizzato è una problematica caratterizzata da una ansietà persistente da oltre 6 mesi e da una preoccupazione incontrollabile che appunto dura perlomeno da 6 mesi. Questo disturbo è associato comunemente con la depressione, con l'abuso di alcol e di sostanze, con problemi di salute fisica o con tutte di queste situazioni mischiate tra loro. Dal medico spesso ci si va perché si hanno sintomi fisici come il mal di testa, tensione muscolare, sintomi gastrointestinali, dolori alla schiena e insonnia. E allora cosa bisogna fare? Perché è un problema che invalida la vita. Intanto ci sono dei test, delle scale, delle scale di valutazione che permettono di fare una diagnosi precisa e quindi bisogna che il medico sottoponga il paziente a una di queste scale. E poi ci sono dei trattamenti che funzionano. C'è la terapia cognitivo-comportamentale, che è una terapia psicologica che deve essere fatta con un esperto, ma poi ci sono anche i farmaci come gli inibitori selettivi del reuptake della serotonina oppure gli inibitori selettivi del reuptake della serotonina e della norepinefrina, diciamo i derivati della pillola della felicità, il Prozac che tanti anni fa fu messo in commercio avendo certamente un ottimo effetto sui disturbi della depressione. Queste molecole, quelle oggi ormai siamo arrivati alla terza generazione di quelle molecole, funzionano anche per il disturbo di ansia generalizzato. Quindi nessuna paura e potete tranquillamente affidarvi a questo tipo di trattamenti. Le benzodiazepine devono essere utilizzate con molta cautela. Oramai le benzodiazepine si utilizzano molto meno che anni fa, anche perché ci sono appunto farmaci più efficaci e se utilizzate devono essere utilizzate sotto stretto controllo medico. Prima di chiudere Michele D'Alecco ci dice: gli unici critici siete voi. Sarà per quello che Renzi non vuol venire a trovarvi, chissà se ma no. Gli unici critici, però questa è una gran medaglia. No, per chiudere, Gloria Guerrera come sempre ha scelto la nostra canzone Un giorno credi di Edoardo Bennato. Un giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo, in un altro ti svegli e devi cominciare da zero. Situazioni che stancamente si ripetono senza tempo, una musica per pochi amici come 3 anni fa. A questo punto non devi lasciare, qui la lotta è più dura, ma tu se ne prendi di santa ragione, insisti di più.